English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa settimana parliamo di televisione, una televisione che, lo abbiamo detto molte volte, ha raggiunto e talvolta superato i livelli del cinema. Televisione bellissima in questi anni, soprattutto per quanto riguarda le serie, i telefilm. E stiamo per parlare di una serie che arriva proprio in questi giorni sugli schermi di Sky, si chiama Boardwalk Empire. È una serie ambientata nell'America del proibizionismo, una serie che è caratterizzata anche dall'intervento di un maestro come Martin Scorsese, che ha diretto il pilot, l'episodio pilota, ma noi ne abbiamo parlato con il protagonista, con uno dei protagonisti, che è il giovanissimo e particolarmente affascinante Michael Pitt, che intanto ci ha spiegato, e questo è accaduto al Festival del Cinema di Roma, ci ha spiegato com'è il suo personaggio. My character is a World War I vet that comes back to Atlantic City after being away in France. He comes back to see sort of his peers, his contemporaries, who didn't go to the war, all like excelling in their, in their fields, and he's having a very hard time finding a job. So he begins to get caught up into bootlegging liquor. One thing I can say about the arc of my character is it's a very, very intense arc. He starts one place and he has a very, very hard journey and he ends up in a completely different situation. Allora, my character, quante volte l'abbiamo detto, ripetiamola ancora fino allo sfinimento. Non si parla di carattere, proprio no. È un false friend, perché character è il personaggio. Quindi il suo personaggio is a World War I vet. World War I, prima guerra mondiale, World War II, seconda guerra mondiale, lo trovate spessissimo abbreviato nella forma scritta WW1 o WW12 con i numeri romani. Vet è l'abbreviazione non di veterinario, anche se a volte è anche quella, ma di veteran, che non è assolutamente traducibile con veterano, come lo sento spessissimo, ma reduce, in italiano diciamo reduce. Quindi il suo character è un World War I vet, un reduce della Prima Guerra Mondiale. E da qui comincia lui, reduce della Prima Guerra Mondiale, torna dall'Europa negli Stati Uniti e trova una situazione molto difficile. Quindi to come back to, naturalmente vuol dire tornare a, però anche questo to dà il senso appunto di trovarsi davanti qualcosa di generale, in questo caso lo scenario della sua città, che come l'aveva lasciata, e quindi i suoi peers, cioè i suoi pari. Ho l'impressione che Michael Pitt cerchi di parlare in modo insomma forbito, di darsi un po' un tono, è un attore molto giovane, ha fatto film importanti, ha lavorato anche con Bertolucci, no, se non sbaglio. Certo, The Dreamers. The Dreamers. Quindi peers e contemporaries, quindi semplicemente insomma con i suoi, con le persone che aveva conosciuto, che erano rimaste lì, che non erano andate in guerra. Sapete che nella Prima Guerra Mondiale in particolare non c'era la leva obbligatoria negli Stati Uniti, quindi partirono tantissimi volontari. E cosa succedeva però negli Stati Uniti che lui trovava quando è tornato dall'Europa? Quindi tutti questi suoi peers, questi suoi contemporaries, magari anche amici, friends, non lo dice, ma insomma tutte le persone sue coetanee sostanzialmente li ritrovò excelling in their fields. To excel in a field vuol dire eccellere in un campo, nel loro campo. Insomma, erano persone che non avevano subito l'interruzione drammatica della guerra, mentre lui, he's having a hard time finding a job. To have a hard time vuol dire avere letteralmente un tempo duro, cioè avere grandi difficoltà a trovare un lavoro. È un'espressione molto usata, per esempio non so se qualcuno a volte gode a metterci in difficoltà quando parliamo, gli possiamo chiedere why are you giving me such a hard time, perché mi rendi tutto così difficile. Quindi è un'espressione insomma che si presta a tantissimi utilizzi in inglese. Abbiamo detto che si trova quindi nell'America del proibizionismo, e qui c'è un aspetto molto intrigante che già ci rende questo Boardwalk Empire molto intrigante. He's having a hard time finding a job, e quindi che cosa fa? He got caught up into, to be caught up into something vuol dire essere catturati, naturalmente è il passato irregolare di catch, quindi to catch, caught, e viene catturato dal bootlegging. Allora, bootlegging per la maggior parte di noi è naturalmente piratare i dischi, ma questo significa soprattutto contrabbandare, cioè l'origine del termine è appunto il contrabbando di liquori, quello che fioriva sotto il proibizionismo. Non ci dice molto di quello che succederà al suo personaggio, per non svelarci come va avanti la trama di Boardwalk Empire, però qualcosa ci svela. Anche qui molto forbita questa espressione, dice che il suo personaggio ha un very very intense arc, cioè ha un arco di, insomma, come una specie di arcobaleno, potremmo quasi dire, di sfumature. Quindi starts one place, inizia in un posto particolare, cioè in un punto della sua vita, di anche di persona, and ends up. To end up vuol dire finire, ci aggiungiamo quell'app, naturalmente avrebbe potuto dire end, ma invece to ends up vuol dire proprio finire rafforzato in a completely different situation. Questo episodio pilota che vediamo in questi giorni su Sky di Boardwalk Empire è stato diretto da Martin Scorsese. Ma com'è stato per Michael Pitt lavorare col maestro Scorsese? It was horrible. It was wonderful to work with Martin Scorsese. I guess maybe the thing that interests me most about him is that he has such a pure love for film, and he still has it. And you know, I don't know exactly how old he is, but I have this feeling that. You know, when he was 23, he was just as excited as now, as a 6-year-old or however old he is. And to me, that's really rare. Devo dire che l'ho trovato buffo, anche quando l'ho sentito per la prima volta, dicevamo, al Festival del Cinema di Roma. È spiritoso e poi ha un certo senso deciso di non avere un timore reverenziale. Lo tratta quasi come un signore anziano, però ma ancora molto entusiasta. Così. Gli toglie anche un po' di anni, credo. Comunque all'inizio fa il mattacchione, no? Perché naturalmente gli si chiede com'era lavorare con Martin Scorsese. Was horrible. Beh, chiaramente non era horrible. Qui naturalmente notiamo, no? Perché noi diciamo Scorsese, cioè per noi in italiano si legge così, invece in inglese naturalmente Scorsese con quella E finale che appunto si legge I, così come Nike si legge con la E finale e non Nike, che noi siamo spesso tendiamo spesso a dire Nike, invece Nike, gli americani dicono Nike, anche se poi in realtà sarebbe Nike, la dea della vittoria greca, piccolo spunto così di cultura classica. E invece Scorsese è proprio Scorsese, allora lo dice prima, vabbè è stato orribile, poi tutti ridono ovviamente alla battuta, poi serio. Sì, dice che la the thing that interests me most about him, to be something that interests me about someone, quindi la cosa che mi interessa più di qualcuno, quindi più o meno come in italiano, he has such a pure love for film, to have a pure love for something. Noi diciamo amare qualcosa, invece in inglese è anche amare per qualcosa, l'amore per qualcosa, quindi noi diciamo l'amore per, invece in inglese lo si può anche usare con il verbo. E he still has it, you know, e ce l'ha ancora, you know, sentiamo Pitt che per quanto forbito ci mette questi I guess, you know, sort of, insomma tutti quegli intercalari che spesso sentiamo agli americani ma anche agli inglesi. I don't know how old he is, non so quanti anni abbia, la pone appunto come dicevamo sull'età, lui dice una sessantina, è stato generoso. E poi aggiunge che appunto che lui I have this feeling, ho questa sensazione che when he was 23, quindi quando Scorsese aveva 23 anni, he was just as excited as now, that dice a 60 anni, che effettivamente che Scorsese ne credo che ne abbia più di 70. Mi sa di sì. E comunque vabbè. Lui evidentemente, ma Michael Pitt ad avere 23 anni dice io adesso sono particolarmente excited, che non è necessariamente eccitato ma entusiasta, emozionato, insomma lui si sente in questo modo, dice perché ho 23 anni, ma anche Scorsese avendone una sessantina, come dice lui, prova le stesse sensazioni e aggiunge to me it's really rare, quindi to me, non for me, ma to me that's really rare, e quindi questa è un'altra piccola differenza di quelle che fanno capire quanto bene uno sappia l'inglese. È chiaro che anche se avesse detto for me l'avremmo capito, però avremmo intuito che forse non era inglese americano. Uno che dice to me that's really rare, you can bet that he's mother tongue, che è madrelingua. Prodotto televisivo, nonostante la realizzazione anche grazie a questo grande maestro che è Scorsese, che ha diretto l'episodio pilota, spesso si dice ultimamente che la televisione è fatta talvolta meglio del cinema, lo dicevamo anche in apertura di questa trasmissione, e Michael Pitt risponde proprio a questa domanda: la televisione davvero ultimamente riesce a essere anche meglio del grande schermo? I've heard this a lot, people saying that the greatest stuff right now is happening on television. I think yes and no. When I watch The Sopranos, I don't look at it as any different than screening a film. I remember Stanley Kubrick had a quote saying something to the effect that television, this is back then, has raised the bar as far as filmmaking. So I think that it may put pressure on filmmakers to be more radical in 2 hours because we're able to do this on you know on television. Lo ha sentito spesso anche Michael Pitt. Si dice sovente la televisione ha raggiunto i livelli del cinema, talvolta è anche meglio. E lui dice sì, I've heard this a lot. Lo sento spesso. Notiamo che non ha detto I heard this a lot, l'ho sentito, but I have heard this a lot. Ci dà l'idea che è un lungo tempo quello lungo il quale lui ha sentito dire queste cose. Cioè in italiano diremmo semplicemente è da tanto che sento dire che. E tra l'altro lo sento dire da a lot of people. E quello che ci spiega è che the greatest stuff right now is happening on TV. Ecco, questo stuff è una di quelle parole che veramente possiamo usare per qualsiasi cosa. What's that stuff that you're eating? Che cos'è quella roba che tu stai mangiando? Ma anche the greatest stuff, la cosa più, in questo senso stuff non è per nulla dispregiativo, ma tutte quelle cose che stanno succedendo. È anche una parola, secondo me, simpatica dal punto di vista onomatopeico e infatti viene sempre quasi usata appunto o in domande che comunque sono scherzose o per dire, per dargli una connotazione positiva, quindi the greatest, le cose più belle in assoluto sono quelle happening on TV. Lui cita i Sopranos, gli sono piaciuti particolarmente, dice li guardo, anzi probabilmente li riguarda in DVD e cosa pensa? Che there's nothing any different than screening a film, che non c'è niente di diverso da quando invece si vede un film e addirittura cita Stanley Kubrick e dice back then, perché Stanley Kubrick è morto da alcuni anni, quindi è una citazione che comunque non è di oggi, forse non c'erano nemmeno i Sopranos, ma già la televisione americana cominciava a produrre questi serial fantastici e diceva the television has raised the bar as far as filmmaking, to raise the bar, letteralmente alzare l'asticella, quindi ha alzato l'asticella per tutto, per tutta l'industria cinematografica. C'è una differenza sostanziale di durata, eppure non di risultato. È molto giusto, credo, questo che dice, perché siamo un po' ingenerosi, no? A volte fare questi confronti, come è un po' come confrontare pere e mele, però in realtà, perché appunto il film è 2 hours, è una serie TV, può durare tantissimo. Allora lui dice però, the TV may put pressure, probabilmente ha fatto pressione, ma in senso positivo, ha stimolato to the filmmakers to be more radical in 2 hours. Qui notate che radical è uno di quegli aggettivi lunghi, l'inglese odia le parole lunghe possibilmente, quindi ci mette il comparativo davanti, quindi to be more radical, mai e poi mai radicaler, quello proprio altro che mother tongue, ti guarderebbero come dire excuse me. E in televisione siamo capaci di farlo ormai, we are, si mette tra i televisivi Michael Pitt, perché con questo Boardwalk Empire ormai è entrato anche in questa categoria. Sì, because we are able to do, quindi to be able to do something, o unable, quindi essere capaci di fare qualche cosa o non fare qualche cosa on television, e questo Boardwalk Empire, che è in questi giorni con il primo episodio su Sky. Noi salutiamo Michael Pitt, vi ricordiamo che il nostro English 24 è con Michael Pitt anche questo mese in edicola. Ringrazio Filippo Aureggi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'appuntamento al prossimo English 24.